Radio 24 Reportage. Oltre le regioni, l'Europa guarda all'Adriatico, di Sergio Nava. Cooperazione territoriale e strategie macro-regionali. Le regioni europee sviluppano ormai da anni un numero crescente di partnership per incrementare il valore aggiunto delle politiche strutturali comunitarie. Buongiorno da Bruxelles per un reportage che ci porterà al cuore delle macro-regioni d'Europa. Reportage che abbiamo realizzato nel corso degli Open Days 2012, il più grande evento europeo dedicato alle politiche regionali. Il focus di oggi ci porterà a raccontarvi un'area macro-regionale che sta molto a cuore all'Italia. Macro regione, vasta area geografica risultante dall'accorpamento di più regioni ritenute omogenee sotto qualche aspetto. Questa è la definizione classica da dizionario, una definizione molto ampia che nel corso degli anni si è declinata sotto varie forme di collaborazione. Le macro regioni mantengono una forma in continua evoluzione. Le più note in Europa sono quelle del Baltico o quella del Danubio. Il governo italiano punta ora a far nascere la macro regione Adriatico-Ionica, una forma di cooperazione transnazionale che intende consolidare la collaborazione e sviluppare una governance comune su tematiche condivise: ambiente, energia, trasporti, pesca, sviluppo rurale, turismo, cultura, PMI. Gli stati coinvolti abbracciano l'intera costa occidentale e orientale dell'Adriatico. Qui a Bruxelles se ne è discusso nel corso di un convegno che ha visto protagoniste molte delle regioni e delle città che si uniranno nella futura macro-regione. L'ambasciatore italiano all'Unione Europea, Ferdinando Nelli Feroci, ci spiega come è nata l'idea di concentrare gli sforzi del sistema paese su questo territorio. Questa idea della macro-regione trae ispirazione dall'esperienza della macro-regione del Baltico e successivamente del Danubio. Noi ci siamo chiesti perché no un'iniziativa di questo tipo anche in un'area di diretto interesse dell'Italia. Abbiamo individuato a suo tempo, pare 2 anni fa circa, l'Adriatico e lo Ionio come una regione omogenea e di straordinaria interesse politico, e abbiamo concentrato su questa area, su questa regione, l'idea di una macro regione dell'Adriatico e lo Ionio. E ascoltiamo ora uno dei presidenti regionali coinvolti nel progetto, quello dell'Abruzzo, Gianni Chiodi. Economia e ambiente sono gli assi su cui la regione del centro Italia intende puntare all'interno della futura macro regione. Noi abbiamo intanto preso atto di una cosa, che ormai lo sviluppo per i nostri territori, per le nostre comunità, passa sempre più su progetti che sono di area più vasta, e spesso anche con una rete di attori sia locali che extralocali molto più numerosa, e di conseguenza una collaborazione in questo senso su territori che hanno una dimensione più giusta in funzione di quelle che sono le dinamiche di sviluppo può essere utile. Lei considera che la Regione Abruzzo è già autorità di gestione del programma IPA Adriatico, che vede più o meno la stessa composizione, direi, degli stati e dei paesi che rispondono alla macroregione adriatica, e abbiamo potuto apprezzare quelle che sono gli aspetti positivi di questa collaborazione. Lei consideri che ormai noi non pensiamo più che la domanda interna possa sostenere le nostre imprese, e noi abbiamo necessità di avviare processi di internazionalizzazione molto spinta, e questa è una dei modi attraverso il quale magari ci si può arrivare. Quindi diciamo una macroregione che possa aiutare anche lo sviluppo delle imprese, ma per quanto riguarda il resto anche della regione, quali sono le aree di cooperazione che cercherete soprattutto di implementare con i vostri vicini? Ma guardi, intanto noi abbiamo elaborato un progetto che adesso è stato finanziato dall'IPA Adriatico, che sta avendo una risonanza inaspettata per quanto riguarda il cosiddetto progetto Powered, che è lo studio di quelle che possono essere l'utilizzo dell'energia eolica nell'ambito del mare Mediterraneo, quindi sull'energia essenzialmente e sull'ambiente, perché noi siamo una regione che ha una caratteristica, siamo una 3/4 del nostro territorio sono protette. Questo può essere un fatto positivo, un fatto negativo a seconda della visione di breve termine o di lungo termine. Noi riteniamo che nel lungo termine sia un investimento molto importante, e questo ci sta consentendo anche attraverso questi progetti con altre regioni dell'est Europa che hanno una dimensione naturalistica molto significativa di trovare modi di collaborazione e di sviluppo di queste tecniche. Da ovest ci spostiamo ad est. Alla macro regione Adriatico-Ionica guardano con grande interesse anche gli enti locali industriali della sponda orientale dell'Adriatico. Nicola Dobroslavic è presidente della regione di Dubrovnik in Croazia. Ci sono obiettivi che non si possono raggiungere da soli, ma occorre una cooperazione. È lo stesso motivo per cui è nata l'Unione Europea, no? Osserva Dobroslavic. Con le regioni italiane collaboriamo già, con Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, praticamente tutte le regioni a ovest dell'Adriatico. Vogliamo lavorare insieme nel settore del turismo, dei trasporti, delle università, della sicurezza e della lotta ai traffici illeciti, della pesca, della protezione ambientale. Al momento stiamo collaborando in particolare sulla candidatura comune ai fondi europei. Noi stessi abbiamo creato un'agenzia regionale dedicata. È molto utile per tutti i partner coinvolti, afferma Dobroslavic, il quale guarda con ottimismo all'ingresso nel 2013 della Croazia nell'Unione Europea. Ciò renderà più semplici le relazioni con le regioni comunitarie. Questo ci aiuterà molto a svilupparci, ma noi continueremo comunque a cooperare con le regioni dei Balcani che ancora non sono parte dell'Unione per favorire la loro futura integrazione. La macroregione Adriatico-Ionica rappresenta, lo anticipavamo poco fa, un obiettivo dello stesso governo italiano. Ad affermarlo esplicitamente ai microfoni di Radio 24 il sottosegretario agli affari esteri Marta Dassù, venuta fino a Bruxelles per perorare la causa. Con i nostri colleghi, cioè Grecia, Slovenia e Croazia, che sono i tre promotori insieme all'Italia di questa iniziativa, il punto fondamentale è di ottenere dal Consiglio europeo di dicembre il mandato per l'avvio di questa strategia macro regionale, perché è una strategia europea, questo va capito, non coinvolge nuovi fondi, e anche questo è un punto importante, specialmente in periodi come questi, ma coinvolge le risorse della Commissione europea ed è basata sull'idea di spendere insieme i fondi europei per progetti che saranno essenzialmente di cooperazione marittima, strategia Adriatico-Ionica, ma anche progetti infrastrutturali, noi siamo molto interessati al corridoio Baltico-Adriatico, e progetti energetici. Prima di tutto ci vuole un paio d'anni, cioè noi otterremo questo mandato dal Consiglio e dalla Commissione nel 2012, nel dicembre speriamo, e poi dovremo definire concretamente i programmi che vogliamo fare, il modo di lavorare insieme a livello sia regionale che nazionale, e nel 2014 la strategia partirà concretamente, quindi ci vuole un po' di tempo. Tra l'altro questo sarà uno dei temi della futura presidenza italiana nel 2014 dell'Unione Europea, cioè potenziare ulteriormente strumenti regionali. Sì, è importante perché per noi naturalmente i Balcani occidentali sono una sorta di backyard, insomma un cortile vicino, un'area vicina che dobbiamo assolutamente stabilizzare. L'allargamento in questo momento andrà gradualmente, quindi la strategia di cooperazione ci permette di fare delle cose insieme e anche di stabilizzare un'area molto importante. È importante molto per l'energia, abbiamo ad esempio appena firmato a New York con Albania e Grecia questo accordo tripartito per il famoso TAP, il corridoio del gas dall'Azerbaigian attraverso la Turchia, poi la Grecia, l'Albania, l'Italia, quindi è un'area da tutti i punti di vista di importanza strategica. Tra i settori di cooperazione interregionale che costituiranno la base della futura macroregione Adriatico-Ionica figura la pesca. La commissaria europea per la pesca e affari marittimi Maria Damanaki ha portato il punto di vista di Bruxelles riguardo alla cooperazione tra le due sponde dell'Adriatico. Sentiamo cosa ha detto a Radio 24. I think that what we can do is to... Ciò che possiamo fare è cooperare con le regioni e i governi dei paesi che costituiscono la macroregione Adriatico-Ionica per fare in modo che i nostri pescatori possano trarne vantaggio, afferma Maria Damanaki. Per esempio, i pescatori possono incrementare i propri guadagni trasformandosi in guardiani del mare, aiutandoci anche a raccogliere dati e collaborando da un punto di vista scientifico. Abbiamo pure progetti speciali, per esempio nei periodi di pausa della pesca possiamo coinvolgere i pescatori nella pulizia del mare. Il modo migliore di aiutarli resta comunque avere una pesca sostenibile. Se gli stock di pesce non si abbasseranno, anche il loro reddito migliorerà, conclude la commissaria Damanaki. Nonostante la macroregione Adriatico-Ionica si trovi ancora in una fase di stand-by, alcuni progetti interregionali fra i territori che si affacciano su quel tratto del mar Mediterraneo sono già operativi. Nel workshop che ha promosso la nuova aggregazione territoriale ne sono stati presentati diversi. Vari settori, la protezione del patrimonio culturale, l'internazionalizzazione delle PMI, i corridoi infrastrutturali, l'energia sostenibile. Proprio su quest'ultimo tema si segnala un progetto che vede molto attiva la regione Puglia. Si chiama Alter Energy. Ce ne parla Silvia Godelli, assessore regionale al turismo della Puglia. È un progetto di circa 12 milioni e mezzo di risorse provenienti dallo strumento di preadesione dell'Unione Europea. La Puglia è il leader partner, le regioni italiane interessate sono tutte quelle che affacciano sull'Adriatico, i paesi orientali adriatici interessati sono tutti dal nord fino al sud, compresa la Grecia. L'obiettivo è quello di integrare diverse politiche di approvvigionamento energetico da fonte rinnovabile e di distribuzione delle energie, nonché di risparmio energetico nelle piccole comunità dell'intera area. Il progetto è iniziato l'anno scorso, è in corso, dura in tutto 48 mesi. Quali sono stati i primi risultati? I primi risultati, diciamo, la difficoltà maggiore è stata quella di sintonizzare i diversi partners che hanno ovviamente legislazioni, regolamenti tra di loro molto differenti. L'Italia e la Puglia sono ovviamente adeguate alla normativa comunitaria, le altre realtà no, quindi il primo momento è stato un momento di omogeneizzazione. C'è molto interesse nei partner dell'altra sponda, soprattutto per gli aspetti relativi alla distribuzione che riviene dall'approvvigionamento, perché per loro il principale problema è proprio la distribuzione. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.